Proprio in questa mattinata di Natale mi è capitato di ascoltare alla radio una trasmissione molto interessante e non breve, in cui si parlava diffusamente delle conquiste della tecnica oggi di cui l'uomo usufruisce. Sostanzialmente si sottolineava il grande sviluppo della comunicazione tra le persone in tutto il mondo, in tutti i settori della vita, dovuto all'uso della tecnologia. E il secondo punto che si sottolineava molto era lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Si parlava di tutta la robotica, della domotica, dell'applicazione alla guida automatica. Era una trasmissione interessantissima da ascoltare. Ma a un certo punto io mi sono come fermato e mi sono visto un mondo di robot, un mondo di automi. E mi sono detto: ma è questa l'umanità che mi aspetta? E mi è venuta in mente l'immagine di Gesù bambino che ieri abbiamo deposto nella messa di mezzanotte qui nella paglia. È una statuetta, tanto carina però, che ci ricorda l'umanità. E allora ho detto: oh Signore Gesù, ben venga questo mondo che cresce secondo lo sviluppo dell'intelligenza dell'uomo, ma per favore non lasciarci mancare mai l'umanità rappresentata dalla tua persona, dai tuoi doni. Per favore fa che l'uomo, mentre cresce e mentre si sviluppa in questa intelligenza artificiale, cresca anche in quell'umanità di cui si parla nel tuo Vangelo, perché in quella trasmissione non ho sentito una sola volta la parola amore, ma neanche la parola bellezza o amicizia. Ho detto: oh Signore, donaci tutta questa conquista, ma donaci anche lo spessore dell'uomo, dell'umanità, che tu hai sottolineato e di cui tu sei il creatore. E mi veniva il desiderio di riprendere in mano, per me ma anche per voi, il Vangelo e di farlo passare, di approfondirlo, di studiarlo, di godermelo in tutti gli aspetti di profonda umanità. Un'altra parola che non ricorre mai in nessuna trasmissione, in nessun discorso di tecnologia, è la parola perdono. Non esiste. Non esiste il perdono. Ma siccome ciascuno di noi ha bisogno di essere perdonato, lui non è così. Quante volte sentiamo che nei rapporti con le persone, o addirittura se guardiamo al nostro cuore, da noi stessi, abbiamo bisogno di essere perdonati, cioè accolti, cioè abbracciati, cioè amati. E allora dico: Signore, che bella la tua festa di Natale in cui ci parli e ci rinnovi la tua umanità che si riflette sulla nostra umanità. E ti preghiamo, Signore Gesù, non lasciare mancare mai al nostro mondo, così magnifico per tanti aspetti, non lasciarci mancare mai la tua profonda umanità, la nostra profonda umanità sul tuo modello. Ma poi nasceva in me un altro pensiero successivo e dicevo: non mi basta neanche la mia umanità. Perché quando questa intelligenza artificiale fosse capace di riprogrammare le mie cellule staminali, di tutti i miei tessuti, dal tessuto sanguigno a tutti gli altri tessuti, quando fosse capace di darmi una vita pressoché eterna, e poi cosa me ne faccio? E poi il senso del mio vivere, il senso del mio andare verso dove? Verso dove? Verso l'infinito? L'infinito dello spazio che è popolato dai corpi celesti, ma che è così gelido, così vuoto, così inespressivo per l'uomo. Dove vado, Signore, con questa quasi eternità che la scienza mi regala? E mi veniva la nostalgia ancora del Vangelo, dove mi si parla del paradiso. E benedicevo la Chiesa, nostra Madre, che ci regala, e io lo regalo a voi come svelamento, questo periodo natalizio straordinario, ricchissimo, pieno di santità. Non è solo Gesù bambino che pone la sua dimora tra di noi con la sua santità e la sua umanità, ma sono tutti i santi, da Santo Stefano ai santi martiri innocenti, a San Giovanni, ancora a San Giovanni Battista, a Maria Santissima. Che periodo magnifico fino al battesimo di Gesù ci aspetta. E allora vi suggerisco, cari cristiani, approfittatene. Approfittatene. Non cadiamo nella trappola in cui tanta gente, io vedo che è caduta anche oggi, che non va a messa a Natale perché si è già andata a messa stanotte o ieri sera coi bambini. Che bello il giorno di Natale stare a casa in tuta, così non mi cambio, così posso fare da mangiare per i miei figli, così posso godermi, sì, col digestivo poi dopo, per godermi quello che stoltamente ho ingurgitato. È festa, ma che tipo di festa se non è una festa umana, se non è una festa finalizzata? Coraggio, amici, guardiamo a Gesù nella sua umanità, che risveglia la nostra umanità. Guardiamo a Gesù nella sua santità, che risveglia in noi l'amore e la bellezza. Credo che siamo ancora in tempo, se abbiamo bisogno di riconciliarci con un fratello. Io ho confessato un po' di gente ieri e chiedevo a tutti, tra i vari peccati: ma tu sei in pace con tutti? O c'è qualche persona a cui non farai gli auguri a Natale? Ah sì, così, così. E spesse volte sono parenti strettissimi. E io chiedevo: non ti sentiresti di suonare il campanello e di dire ti auguro un buon Natale? Ma chissà come mi accoglie. E se sotto sotto fosse desiderato? Allora comincia a far così: non suonare, non telefonare, manda un messaggio. Sul cellulare il messaggio arriva in silenzio, uno lo legge, può far finta anche di non capirlo se non vuole risponderti. Ma che bello se quella persona aspetta quel messaggio e ti risponde. E se quella persona non ti rispondesse, ti assicuro, cara sorella, perché ho presente le persone a cui l'ho detto, che bello, tu ne verresti fuori nuova. E poi ho detto, magari se mi fai sapere com'è andata. Ho ricevuto come risposta alla messa di mezzanotte un sorriso bellissimo, ho detto: don, è andata benissimo.